prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. In questo appuntamento insieme alla Caritas Diocesana di Padova ci proiettiamo alla fine di questo mese, il weekend dal 27 al 29 di novembre, venerdì, sabato e domenica, la seconda edizione per Padova delle 10.000 ore di solidarietà. Ovviamente in tre giorni non ci stanno 10.000 ore, sono 72, ma ci facciamo spiegare il perché di questo titolo da Giorgio Pusceddu, che è operatore della Caritas. Ovviamente il 10.000 non è il totale, Giorgio, ma è la somma delle ore di tanti. Esatto, buongiorno a tutti intanto. Sì, 10.000 ore è la somma delle ore di ciascun volontario, tutti i volontari che saranno impegnati in questo weekend di sfida, perché è una sfida arrivare a 10.000 ore, non è scontato. L'anno scorso, questa è la seconda edizione, ecco, l'anno scorso ce l'abbiamo fatta, non ci sono stati così tanti ragazzi che hanno aderito, perché stiamo parlando di ragazzi dai 14 anni in su, che hanno appunto permesso di raggiungere il totalone dei 10.000 ore. Quest'anno ci riproviamo, se va bene anche quest'anno, l'anno prossimo aumentiamo, facciamo 150.000, no dai, qualcosa in più però sicuramente. È un'iniziativa che è nata già in altre diocesi, nel vicino Patriarcato di Venezia, già da qualche anno. Loro la chiamano 72 ore perché poi sono le ore che effettivamente ciascuno mette a disposizione, qui invece si è puntato al totale. Le modalità di svolgimento, appunto, dal venerdì alla domenica ci si mette lì a disposizione per realizzare un progetto, sostanzialmente un progetto che viene deciso dalla realtà che accoglie, che si basa appunto sul sapere che ci sarà un gruppo di ragazzi disponibili per tutto questo tempo a sporcarsi le mani. Quindi i progetti sono vari, di vario tipo, da proprio progetti materiali manuali in cui bisogna dipingere, ristabilire, pulire, a progetti di relazione, incontrare le persone che sono normalmente accolte dentro le varie comunità che appunto danno disponibilità a fare questa iniziativa, perché è un'iniziativa che dà frutti da tutte e due le parti, diciamo, sia i ragazzi che vivono come volontari queste ore di servizio, spesso per la prima volta, poi magari ci torniamo su questo, l'importanza di un'esperienza del genere, sia le realtà che aprono le porte, che danno appunto, si costruiscono un progetto apposta per questa iniziativa e riescono a far entrare, a far conoscere la loro realtà a persone che altrimenti chissà quando sarà mai se avrebbero varcato quella soglia. Ecco, partiamo dalle realtà appunto che accolgono. Di che tipo sono? Dove sono? Cioè, sono solo in città Padova? Sono dislocate nel territorio? Sono in realtà no, sono diffuse nel territorio, anche se sappiamo che la città è molto ricca ovviamente, ma non è solo città. Ci sono realtà di tutti i tipi, da comunità di accoglienza a parrocchie, a associazioni, a strutture, insomma, diverso, che hanno attività ordinarie, anche in questo caso molto diverse, che però ecco, sono unite da questo desiderio di avvicinarsi al mondo dei giovani, aprire le porte a loro e far qualcosa di bello con loro, perché poi i risultati normalmente si vedono, ci sono cose anche che toccano e che lasciano un segno, queste di, anche se è un weekend, un'esperienza breve, però lascia il segno, ecco. I giovani che arrivano appunto dai 14 anni, fascia diciamo adolescenti, scuola superiore per dare un riferimento, non necessariamente hanno già alle spalle esperienze di volontariato. No, infatti questa qui è una delle grandi missioni, degli obiettivi di queste iniziative, di essere porta d'ingresso. Perché spesso insomma si parla tanto del volontariato, il servizio che fa bene, che è bello, ti stimola l'incontro, apre la testa, apre il cuore, eccetera, però poi come si assaggia tutto questo? Perché iniziare un'attività di servizio strutturato, soprattutto in questo periodo, è difficile, sappiamo quanto è difficile l'agenda anche di un ragazzo di 17 anni. Ecco, queste qua vogliono essere una sorta di degustazione del bello che si può trovare nel incontrare gli altri donandosi, e non tutti infatti poi, anzi come è giusto che sia, continuano, non tutti poi dopo iniziano attività strutturate, però hanno assaggiato e questo qua rimane come un gusto di sottofondo conosciuto, su cui poi la storia personale di ciascuno costruirà percorsi, insomma. E per noi è interessante, importante, perché abbiamo visto, sperimentato, anche se non abbiamo dati scientifici alla mano, che da queste porte d'ingresso si raccolgono frutti importanti, ecco. si può partecipare sia singolarmente, magari anche in gruppo, perché poi soprattutto a quell'età, insomma, se viene l'amico si è più stimolati. Sicuramente il gruppo o il singolo sono ben accetti in entrambi i casi, solo un'attenzione che chi viene in gruppo, se è un gruppo di minorenni, ci vuole un maggiorenne che accompagna, ecco, per la miglior gestione del tutto. Ricordiamo che c'è il sito per tutte le informazioni, iscrizione dell'ultima ora, ritardatari, ecco, che è 10.000ore.it, 10.000 ore è scritto a cifra. C'è qualche feedback, appunto l'hai detto, dai giovani qualcosa vi è arrivato, ma dagli enti accoglienti c'è qualcuno che si è riproposto quest'anno, qualcuno di nuovo? Sì, quest'anno c'è stata la ricandidatura di molte realtà che hanno già partecipato l'anno scorso, a testimoniare il fatto che è un'esperienza arricchente per tutti, e qualcuno anche di nuovo che coglie l'occasione. E infatti, insomma, non è semplice, questo è interessante da sottolineare, per le realtà mettersi in gioco, perché comunque è un investimento per realtà che spesso si basano le loro forze sul volontariato già nella loro attività ordinaria, per cui bisogna tirar fuori energie in più per costruire e curare questi aspetti, però è un investimento su cui molti credono e che appunto di cui vediamo appunto gli ottimi risultati. E magari lo racconteremo, contatteremo qualcuno di loro dopo che si sarà svolto questo weekend. 10.000 ore di solidarietà dal 27 al 29 di novembre. Grazie Giorgio, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.